Questa è la parola che fu rivolta a Geremia da parte del Signore ai giorni di Joachim, figlio di Giosia, re di Giuda, in questi termini: va alla casa dei Recabiti, parla loro, conducili alla casa del Signore in una delle camere e dai loro da bere vino. Presi allora Jazzania, figlio di Geremia, figlio di Cabassinia, e suo fratello con tutti i suoi figli e tutta la casa dei Recabiti. Io li condussi alla casa del Signore nella camera dei figli di Canan, figlio di Yegdalia, uomo di Dio, la quale è a fianco alla camera dei principi, situata al di sopra della camera di Maasia, figlio di Sallum, custode della soglia. Posi dinanzi ai figli della casa dei Recabiti dei boccali pieni di vino e delle coppe. Poi dissi loro: bevete vino. Ma essi risposero: non beviamo vino, perché Jonadab, figlio di Recab, nostro padre, ci ha comandato così: non berrete vino voi e i vostri figli in eterno. Non costruirete case, né seminerete semenza, né pianterete vigne, e neppure ne possederete, ma abiterete nelle tende tutti i vostri giorni, affinché possiate vivere molti giorni sulla superficie della terra dove voi andrete peregrinando. Noi abbiamo dato ascolto alla voce di Jonadab, figlio di Recab, nostro padre, in tutto ciò che ci ha ordinato, cosicché non beviamo vino per tutti i nostri giorni, noi, le nostre donne, i nostri figli e le nostre figlie. Né costruiamo case per le nostre abitazioni, e non possediamo vigna, né campo, né seminato, e abitiamo nelle tende. Obbediamo così, e facciamo in conformità a quanto ci ha ordinato Jonadab, nostro padre. Ma è accaduto che quando Nabucodonosor, re di Babilonia, è salito verso il paese, allora abbiamo detto: venite ed andiamo a Gerusalemme per sfuggire all'esercito dei Caldei e all'esercito di Aram. Per questo abitiamo a Gerusalemme. Allora la parola del Signore fu rivolta a Geremia in questi termini: così dice il Signore degli eserciti, Dio di Israele: va e di agli uomini di Giuda e agli abitanti di Gerusalemme: non volete forse accettare la lezione ascoltando le mie parole? Oracolo del Signore. Sono state messe in pratica le parole di Jonadab, figlio di Recab, il quale aveva ordinato ai suoi figli di non bere vino, e non lo bevono fino a questo giorno perché hanno ascoltato l'ordine del loro padre, mentre io ho parlato a voi premurosamente ed insistentemente e voi non avete ascoltato. Vi ho anche inviato tutti i miei servi, i profeti, premurosamente ed insistentemente dicendo: si ritragga ciascuno dalla sua via malvagia e migliorate le vostre azioni, e non andate dietro divinità straniere per servirle. Allora potrete abitare nella terra che io ho dato a voi e ai vostri padri. Ma non avete piegato le vostre orecchie e non mi avete ascoltato. Tuttavia i figli di Jonadab, figlio di Recab, hanno praticato l'ordine che il loro padre aveva loro imposto. Questo popolo invece non mi ha ascoltato. Perciò così dice il Signore, Dio degli eserciti, Dio di Israele: eccomi, sto per addurre contro Giuda e contro tutti gli abitanti di Gerusalemme ogni sventura che ho pronunciato contro di loro, perché ho parlato loro ma non hanno ascoltato. Ho gridato a loro ma non hanno risposto. Alla casa dei Recabiti Geremia disse: così dice il Signore degli eserciti, Dio di Israele: poiché avete ascoltato l'ordine di Jonadab, vostro padre, ed avete custodito ogni suo precetto, e l'avete praticato conformemente a quanto vi aveva ordinato, per questo così dice il Signore degli eserciti, Dio di Israele: non mancherà mai a Jonadab, figlio di Recab, chi stia dinanzi a me tutti i giorni.